E bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends. Al microfono come sempre il vostro Jean-Luc riprende il cammino delle interviste. Questa volta è il turno di un'altra band veronese che presenta questa sera il suo primo disco. A voi la parola, ragazzi, per le presentazioni. Ciao dagli Andromeda, io sono Michele il chitarrista. Emanuele il tastierista. Fabio alla batteria. E Massimo al basso. E con gli Andromeda una prima parte in cui ascolteremo formazioni prog rock degli anni 70 con la particolarità di avere con una donna come lead vocalist. La prima canzone era dei tedeschi Frumpy ed aveva titolo How the Gypsy Was Born dal disco Frumpy 2 del 1971. La Germania in quel periodo era terra di grandi sperimentazioni progressive ed elettroniche, non stupisce quindi che avessero già band di così alto livello. Che ne dite? Beh, anni d'oro, niente da dire, non solo per la Germania, quindi Stati Uniti, Europa, gli anni dove si poteva fare qualcosa di nuovo, quindi alla grande, tutto era possibile. Un po' più difficile adesso, perché tanto è già stato fatto, bisogna reinventarsi di più. La storia degli Andromeda inizia nel 1997, ma solo da alcuni anni ha cominciato ad avviarsi a pieno ritmo. Come vi siete formati e perché avete scelto questo nome? Abbiamo scelto questo nome... è una canzone che ci rappresenta più che altro, che avevamo scritto proprio nel 97. Noi inizialmente avevamo un altro nome che era impronunciabile sinceramente, e abbiamo scelto proprio Andromeda perché rispecchia anche il nostro percorso musicale che abbiamo fatto in questi anni e gli anni passati. Proseguiamo con i Renaissance. La prima lineup del 1969 comprendeva gli ex Yardbirds Kate Ralph e Jim McCarty, a cui si aggiunsero Jane Ralph, Louis Sennamo e John Oaken per un sound che riprendeva le istanze classiche mescolate al folk e al rock. Dal primo e unico disco Renaissance del 1969, il brano Island. Thank you. Band sfortunata, ma che aveva realizzato ottime idee che poi furono riprese da altri con maggior riscontro. Voi cosa ne pensate? Notevoli comunque sicuramente, molto, molto, molto versatili direi anche, addirittura anche molto attuali. A me ricordavano per esempio i Queen, i grandi vecchi Queen con Freddie Mercury, una canzone di Innuendo, mi faceva venire in mente questa canzone. Comunque veramente un'ottima band, peccato che non abbiano fatto anche dell'altro, non siano andati avanti, peccato. Vostre esibizioni live, come sono andate finora e quali le reazioni a caldo del pubblico a fine concerto? Beh, noi viviamo di live, cioè siamo un gruppo nato sul palco e tuttora cavalchiamo il palco. Va bene, nel senso che il pubblico a fine concerto molte volte si ferma, ci chiede i contatti, vuole sapere del CD, eccetera, eccetera. E poi da lì prendiamo tante idee anche per le scenografie che insomma cerchiamo di curare un po' con la Sabrina, che stasera non c'è, la nostra vocalist. E comunque è sempre un'esperienza positiva. Concludiamo allora questa prima parte con gli Stoned Crows, formazione scozzese rock blues progressiva dalla storia travagliata ma di talento. La riascoltiamo dalle BBC Sessions del 1971 con il brano On the Highway. A fra poco con la seconda parte.